caccia la sorte in vino. Voi nella reggia il passo o caucio coltiva aprite, ove fia dopo al vostro braccio altro ricorso. Argonte solliseo, come mi sfida il cielo, e Verona me cor dir, Costanza,